Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria: poco mosse oggi le borse, meno 0,2% Milano. In realtà oggi parleremo in apertura proprio di mercati finanziari, di borse. Perché? Perché, come alcuni di voi ricorderanno, un anno fa le borse mondiali toccavano i minimi storici. Da 12 anni non si vedevano dei livelli così bassi nei mercati azionari. Nel frattempo, quindi negli ultimi 12 mesi, è successo di tutto. Pensate che in America Wall Street è cresciuta dal 9 marzo del 2009 al 9 marzo, quindi oggi, del 2010, del 70%. Chi avesse investito. Da inizio anno invece 2010 le borse sono molto più piatte, siamo a un meno 2 a Milano, un più 2 in America. Ma la vera domanda è: dopo questo grosso recupero si era arrivati appunto a dei livelli che nemmeno dopo l'11 settembre del 2001 si erano visti, dopo questo grosso recupero adesso qual è lo scenario che attende i mercati? Perché il recupero è stato guidato soprattutto dai titoli bancari, che erano quelli che più avevano perso, grazie anche alla grandissima liquidità che le banche centrali e gli stati, quindi comunque i cittadini, nel caso europeo ma anche nel caso americano, hanno messo sul mercato per permettere alle banche di non andare in crisi di approvvigionamento, chiamiamolo così, finanziario. Questo ha permesso, e i tassi bassissimi hanno permesso un grosso recupero dei gruppi bancari. Ci si interroga adesso su cosa potrebbe capitare nei prossimi mesi, quando prima o poi i tassi torneranno a salire, e soprattutto non è pensabile che la liquidità, la massa monetaria resti a questi livelli ancora molto a lungo. Per quello che riguarda i temi di oggi, oltre che di borse, parleremo anche di un'iniziativa che ieri abbiamo raccontato e che oggi però trova ampia eco su tutti i giornali: l'iniziativa di un fondo monetario europeo. Anche qui di nuovo botta e risposta. Oggi la Germania sta spingendo molto per quello che riguarda il fondo monetario europeo, come la Francia. L'Italia ha trovato la proposta interessante per voce del ministro dell'economia Giulio Tremonti. Oggi si registra invece qualche perplessità in più. Per esempio la Commissione europea ha detto: attenzione, qui non c'è ancora una proposta, e lo ha detto alla Banca Centrale Europea, perché la stessa Banca Centrale Europea oggi se ne è uscita con una, così, con un commento un po' strano. Ha detto infatti il capo economista Jürgen Stark della Banca Centrale Europea, ha detto: ma insomma, un fondo monetario europeo non sarebbe compatibile con i principi dell'Unione Economica e Monetaria, potrebbe rappresentare un azzardo morale, cioè il non rispetto dei paletti fissati dal patto di stabilità. Ne parleremo nella seconda ora, anche perché la Banca Centrale Europea, a nostro avviso, alle volte vive troppo in una torre isolata. È chiaro che il Fondo Monetario Europeo avrebbe la funzione, da quello che abbiamo capito, di fare da così pronto soccorso, chiamiamolo così, soccorso d'emergenza nei confronti di alcune situazioni critiche, a patto però che poi i paesi che vengono aiutati accettino un percorso di rientro durissimo, un po' come avviene alla Grecia. La Banca Centrale Europea teme che in questo modo però i vari paesi iniziano a mollare il colpo, a allargare i cordoni della borsa, a imbarcare debito, o meglio deficit e poi debito. Ne parliamo nella seconda ora del programma, dicevo. 349-238-6666 per i vostri sms. E adesso le notizie in breve. La iniziamo con una notizia che non farà piacere agli ascoltatori, in quanto molti sono automobilisti. La benzina ha toccato il prezzo, si sta riavvicinando praticamente a 1,4 euro. Agip, Kuwait, Shell e Tamoil ad aver aumentato i prezzi, anche se oggi il petrolio ha aperto 80,4 dollari al barile, con un calo del 2% rispetto a ieri. Ieri è arrivato vicino agli 82 dollari al barile. I consumatori, nel caso specifico Adusbef e Federconsumatori, definiscono ingiustificati questi aumenti e tra l'altro con questi rialzi, secondo il calcolo dell'Associazione dei consumatori, gli automobilisti pagheranno in media tra costi diretti e indiretti 170 euro in più all'anno. Passiamo all'Italia, perché oggi il ministro dell'economia Giulio Tremonti, nella bozza di quello che è l'atto di indirizzo per gli obiettivi di politica fiscale 2010-2012, ha messo in evidenza la necessità di sostenere la produttività del lavoro, ma insomma la cosa più importante è che in questa bozza c'è scritto che saranno assicurate misure di sostegno fiscale alle famiglie necessarie al proseguimento del mantenimento della capacità d'acquisto, quindi non si capisce ancora che cosa, ma viene indicato come elemento prioritario chiaramente un aiuto fiscale alle famiglie. E poi il ministro Tremonti ricorda che occorre intensificare come contrasto all'evasione fiscale il controllo sugli italiani all'estero. Sempre sull'Italia, 6 mesi in più di cassa integrazione ordinaria, quanto prevede un emendamento approvato oggi in Commissione Lavoro con un sì, devo dire, di maggioranza e opposizione, un sì bipartisan, firmato dal relatore Giuliano Cazzola, modifica il testo base sugli ammortizzatori sociali e praticamente è in via sperimentale, riguarderà il biennio 2010-2011, fa sì in sostanza che il trattamento di cassa integrazione possa essere dato non più per 52 settimane come è adesso, cioè un anno, ma per 78 settimane, si passa da un anno e mezzo di cassa integrazione ordinaria. Vedo che alcuni ci scrivono i titoli, zero titoli, potremmo dire no, non li abbiamo dati i titoli, avete ragione, allora i titoli di borsa, correggo subito il tiro, Mondadori più 2%, Unipol più 1,5%, Campari più 1,2%, Eni più 1%, Saipem più 0,80%, A2A più 0,70% come Tenaris. Chi perde? Unicredit meno 1,40%, Intesa meno 1,30%, Banca Popolare di Milano meno 1%, Atlantia meno 0,80%, Ubibanca meno 0,70% come Monte dei Paschi e Mediolanum, mezzo punto percentuale lo perdono Mediaset e Mediobanca, ma anche Buzzi Unice. Come sentite non c'è un grosso movimento oggi in borsa, anche tra i migliori e i peggiori troviamo Arena, il migliore più 14%, Gabetti più 8,5%, Snia più 3,80%, tra i peggiori invece Sea Therapeutics meno 3,3%, Banca Profilo meno 3,14%, Ratti meno 5%. Torniamo alle altre notizie in breve di questa giornata. Allora, per quello che riguarda il Fondo Monetario Europeo, ne parliamo fra un'ora. Vedo già alcuni messaggi al 349-238-6666. Ha ragione chi dice che tutto sommato dietro il Fondo Monetario Europeo potrebbe nascondersi un'idea di investimenti di cui si carica l'Europa e non più i singoli stati. Investimenti era il vecchio piano dell'Euro, cioè avere investimenti per esempio in infrastrutture che fossero pagati da tutti i contribuenti europei, non solo diciamo da quelli che poi devono farle passare sul territorio, perché si dice attenzione, sono investimenti che servono a aumentare la competitività europea nel suo complesso, vengono pagati da tutti gli europei. Il Fondo Monetario Europeo, da quello che abbiamo capito, dovrebbe avere più una funzione, ripeto, di ambulanza, passatemi il termine, nei confronti di chi ha necessità di risorse più che di investimenti strutturali. Comunque vi arriveremo. Oggi anche il Presidente dell'Unione Europea, della Commissione Europea, Manuel Barroso, ha detto attenzione, la proposta di un Fondo Monetario Europeo è a lungo termine, per ora ci stiamo invece concentrando su un'attività di coordinamento delle politiche economiche nell'area euro per evitare nuovi casi greci. Dicevo, dura invece il commento del Presidente dell'Eurogruppo, quindi del Parlamento, del parlamentino, diciamo, dei paesi che aderiscono all'euro, perché Juncker ha detto attenzione, come rappresentante dei paesi della moneta unica, l'eventuale creazione di un fondo monetario europeo non è una soluzione per i problemi della Grecia, la Grecia non ha bisogno di aiuti. È tornata sul tema invece anche Angela Merkel, cancelliere tedesca, che ha detto noi siamo favorevoli a patto che il ricorso al Fondo Monetario Europeo possa essere utilizzato solo avendo come controparte forti sanzioni per gli stati che vi fanno ricorso, anche il temporaneo ritiro del diritto di voto alle riunioni dei consigli europei. Quindi se tu chiedi soldi perché sei, tra virgolette, un passo dalla bancarotta, poi perdi alcuni diritti politici, secondo quanto abbiamo capito dall'ipotesi di Angela Merkel. Ancora per quello che riguarda la Grecia, oggi, a parte un ribasso dell'1% dell'indice di Atene, non vi sono grosse novità, se non che va avanti è il secondo giorno lo sciopero dei funzionari del fisco, delle dogane e dei dipendenti della nettezza urbana. In Grecia la chiusura di tutte le discariche sino a giovedì 11 marzo, data di un nuovo sciopero generale in Grecia. Alcune notizie che riguardano le società. Allora, Severstal, il maggiore produttore di acciaio russo, che si è appena comprato il resto che ancora gli mancava del gruppo Lucchini italiano, ha registrato una perdita di 160 milioni di dollari nel quarto trimestre contro un utile di 71 milioni segnato alla fine del 2008 e ricavi saliti del 12%. E ci sono i conti anche per l'italiano Lucchini, che ormai, come dicevo, è controllata al 100% da Severstal. Ha perso un miliardo, cioè Severstal ha registrato nel 2009 un margine operativo lordo negativo per 203 milioni di dollari e i ricavi si sono quasi dimezzati a 1 miliardo e 750 milioni di dollari. E un ultimo dato che riguarda invece un anniversario che non è quello che stiamo per commentare: la Panda, la Fiat Panda, compie 30 anni. Pensate, sono state immatricolate da allora, da quando uscì il primo modello, 6 milioni di unità. È la city car più venduta al mondo. Festeggiato oggi il traguardo al Salone di Ginevra, insomma, che fu lo stesso palcoscenico in cui debuttò nel 1980. Adesso è tutto per le notizie in breve, passiamo al primo tema di apertura e torniamo indietro in qualche modo a 12 mesi fa. Era un anno fa, infatti, quando il 9 marzo 2009 gli indici USA scesero ai minimi degli ultimi 12 anni. Pensate, 12 anni, per cui altro che il settembre del 2001, tutti gli indici, Francoforte, l'America, Milano, Londra, non se ne salvò praticamente nessuno. Che cosa è successo da allora ad oggi? Beh, il Dow Jones ha fatto un più 60%, cioè l'indice complessivo dei titoli americani. Lo Standard & Poor's ha fatto un più 68%, il Nasdaq, quello dei titoli tecnologici, un più 80%. Che cosa hanno fatto poi le borse italiane? Lo vedremo tra un attimo. Quello che hanno fatto, diciamo, le borse poi nel periodo precedente al 9 marzo, cioè da quando è scoppiata questa crisi nel 2000, diciamo settembre 2008 per la parte che riguarda tutti noi, beh, pensate che dal settembre 2008 al 9 marzo del 2009 Milano perse il 54%, l'America il 43%. Se si va a vedere però da inizio 2009 ad oggi, quindi non più da marzo ma dall'inizio del 2009, il dato cambia radicalmente, perché siamo ancora sotto di un 28% per quello che riguarda il MIBTEL e siamo ancora sotto di un 25% per quello che riguarda il Dow Jones. Allora, poi ci sono tutto un insieme di altri dati, ma vorrei iniziare a raccontare questo anno che si è chiuso con il primo dei nostri ospiti, che è la dottoressa Marina Brogi, che è docente di economia e tecnica dei mercati finanziari alla Sapienza di Roma. Professoressa Brogi, buonasera. Buonasera a tutti. Poi sentiremo anche la cronaca, ma se dovessi dare un titolo a quello che è successo dal 9 marzo del 2009 ad adesso, lo giocherebbe più sulla grandissima iniezione di liquidità che nel frattempo le banche centrali hanno immesso nel sistema, cioè dando denaro in prestito a costi praticamente zero, quindi eliminando ogni pericolo per le banche di, non, di avere il famoso credit crunch, cioè la stretta sul credito, i tassi a zero, oppure semplicemente si era arrivati a un livello così basso che non era più giustificabile dai valori di libro, come dicono i tecnici, cioè da quello che insomma hai nelle partecipazioni. Insomma, una casa, immaginate il valore di una casa, può scendere, ma insomma a un certo momento è fatta anche di mattoni, è fatta anche di materiale. Professoressa. Ma secondo me quello, sicuramente ci sono stati degli stimoli all'economia, stimoli di politica monetaria, ma anche stimoli di natura fiscale un po' in tutto il mondo, alcuni dei quali sono sicuramente risultati efficaci. Va però rilevato che rispetto alla quantità di stimoli, ossia la quantità di moneta che è stata introdotta all'interno dei sistemi, probabilmente il tipo di ripresa che c'è stato è comunque stata una ripresa piuttosto debole, proprio perché comunque i sistemi bancari a livello anche internazionale erano abbastanza fragili. Allora, quello che è successo probabilmente è che comunque laddove la quantità di moneta è stata iniettata nel sistema, comunque le banche non hanno erogato più prestiti per la preoccupazione di avere comunque sofferenze crescenti e problemi sui crediti. Probabilmente in passato la politica di credito era stata eccessivamente lasca, cioè non aveva richiesto sufficienti garanzie, probabilmente si era anche andati verso livelli di leva finanziari eccessivi, per cui di fatto in un momento in cui gli stimoli avvenivano comunque c'è stata una spinta verso un deleveraging, o comunque non è stato erogato un nuovo credito proprio perché le banche sono rimaste preoccupate di avere dei peggioramenti nelle qualità dei loro attivi. Ecco, questo mi porta a un ragionamento, perché poi parleremo anche del mercato in sé. La settimana scorsa, professoressa Brogi, un documento che non è che abbia avuto tutta questa eco sui giornali, però era firmato da Consob, Banche, l'autorità di vigilanza sui mercati, Banca d'Italia e l'ISVAP, che è la Consob per il mondo delle assicurazioni. Io sintetizzo e brutalizzo un po' il concetto. Diceva: attenzione, chiediamo ai gruppi bancari, assicurativi e ai gruppi finanziari di dire esattamente quante sono ancora le sofferenze, le svalutazioni, insomma di quanta polvere c'è sotto il tappeto. Siamo rimasti un po' sorpresi, perché chi lo firmava non era esattamente così uno studio di analisti, ma la Banca d'Italia, la Consob e l'ISVAP. Perché secondo lei i tre maggiori controllori del mercato finanziario hanno fatto un documento in cui si chiede alle banche di dire esattamente come è messa la loro situazione e di portare fuori con trasparenza tutte le eventuali sofferenze e svalutazioni? Ma perché tramite una maggiore trasparenza si spera si arrivi anche a una maggior fiducia da parte del mercato per quanto riguarda appunto le possibilità di sviluppo futuro delle aziende. Cioè non si può dimenticare che comunque le banche italiane, ma molte banche anche a livello internazionale, presentano ancora delle valutazioni in cui il mercato attribuisce un valore al patrimonio, un valore di mercato al patrimonio assai inferiore rispetto al valore di libro, per cui di fatto abbiamo dei gruppi che hanno decine di miliardi di valore di libro del patrimonio, per cui a bilancio sono iscritti appunto 50-60 miliardi di patrimonio, andiamo a guardare la capitalizzazione in borsa magari è di 30 o di 35. Ecco, allora, ma lì per far capire a tutti, il problema è che, allora, uno funziona un po' così, adesso anche qui brutalizzo il concetto, se uno ha comprato una casa e l'ha comprata, poniamo, l'avesse comprata 3 anni fa, magari la pagava 100.000 euro, adesso il mercato è un po' sceso, la riuscirebbe a vendere a 80.000, però se non ha bisogno di vendere, lui la mette ancora, va dalla banca e dice: ma io ho 100.000 euro di casa, questo è il valore di libro, cioè quanto tu ce l'hai, quanto speri insomma che valga, anche se in quel momento il mercato non ti sta dicendo che vale quello. E questo vale per le partecipazioni, cioè se una banca ha una partecipazione, un investimento che si è svalutato, lei ce l'ha però a valore di libro a 100.000, lo tiene lì finché può, perché come faremmo anche noi come singoli cittadini, individui, teniamo botta, perché diciamo: beh, magari il mercato riparte, riesco veramente a venderla a 100.000 euro e quindi per me il valore resta 100.000 finché non sono obbligato a svalutare questa partecipazione. E allora le chiedo, professoressa Brogi, è più un problema di tener botta, aspettare finché i valori poi di mercato tornano vicini ai valori di libro, ai valori contabili, o invece è una resistenza in qualche modo per portare in più in là possibile quelle che poi dovranno essere svalutazioni da effettuare? Ma secondo me quello che preoccupa il mercato è, soprattutto nel caso delle banche, il fatto che le banche comunque ancora oggi non abbiano abbastanza capitale. Allora noi ci avviciniamo a una nuova ondata di assemblee che probabilmente, da quello che sono state le anticipazioni, provvederanno a distribuire dei dividendi. Allora, affinché le banche possano svolgere il loro mestiere di banche e erogare credito, devono avere per la vigilanza prudenziale abbastanza capitale dei soci, capitale di alto livello. Storicamente le banche tutte, più ancora le banche estere che le banche italiane, comunque non avevano capitali sufficienti. Allora il mercato, secondo me, ha delle preoccupazioni sulla qualità degli attivi e su quelle che potrebbero essere sofferenze che potrebbero emergere se il ciclo economico non si riprende, perché un conto è stare sott'acqua un anno, un conto è stare sott'acqua due anni, e per cui potrebbero esserci nuove ondate di sofferenze, soprattutto nel caso di un andamento a V doppio della crisi. Ma in più il fatto che comunque il sistema bancario rimanga fragile sicuramente inceppa l'intero sistema macroeconomico. Mi spiego meglio: non basta emettere moneta sul mercato per favorire la ripresa, bisogna che quella moneta, per cui che la politica monetaria, porti a maggior credito all'economia. Se quel maggior credito non può essere erogato perché le banche non hanno abbastanza capitale per erogarlo, perché comunque devono avere un quantitativo minimo di capitale, allora il meccanismo è inceppato, siamo in una condizione di totale stallo. A marzo dell'anno scorso era così, cioè le banche erano ferme, non erogavano niente a nessuno, perché senza far nulla la qualità dei loro attivi peggiorava e l'assorbimento patrimoniale aumentava. C'è una regola qui che va ricordata: una banca non può erogare credito, per fortuna aggiungo io, come vuole. Cioè, sono dei rapporti, il famoso TIR, ma insomma adesso non stiamo entrando nei dettagli. Devi essere il credito che eroghi, quindi i prestiti che concedi devono essere proporzionati, anche qui la brutalizzo un po' il concetto, ma insomma al capitale che tu hai, al fine che tu hai in cascina. Le chiedo ancora 3-4 minuti di pazienza, il metodo, la pubblicità, e poi vorrei capire appunto le vostre previsioni sul futuro. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:36 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso commenteremo anche la borsa di oggi, ma vi ripeto, non è una borsa così significativa, meno 0,2% oggi il FTSE MIB. Volete sapere giustamente quanto ha fatto Milano in un anno, cioè dai minimi del 9 marzo 2009, ha fatto un più 77%, quindi assolutamente in linea con Wall Street e con sia Dow Jones che Standard & Poor's. Ancora, per quello che è anche Nasdaq, volevate ascoltare alcuni brani di Focus Economia dell'anno scorso. L'abbiamo anche immaginato, però attenzione, era una giornata in cui si sono toccati i minimi storici. Non è stata una giornata di borsa di quella da indimenticabile, nulla a che vedere con quella di settembre. Milano perse comunque un 3%, le borse europee chiusero leggermente in flessione. È proprio che statisticamente l'ultimo è il punto più basso in assoluto dei mercati finanziari. Un'ultima risposta la devo dare a chi ci chiede di un titolo che si chiama Cell Therapeutics. Ne abbiamo parlato ieri, quindi mi dispiace, potete ascoltare sul sito della radio il nostro approfondimento. Allora, professoressa Brogi, per quello che riguarda il futuro, perché qua giustamente molti ascoltatori chiedono anche del futuro, lei in quanto tempo ritiene che si avrà un movimento non solo sui tassi di interesse, ma insomma anche di non facilitare al mondo bancario tutto questo ricorso alla liquidità con tassi zero, liquidità in giro per tutta Europa? Ma guardi, io credo che la maggior parte degli esperti, degli analisti economici si aspettano comunque la possibilità di un ritocco sui tassi di interesse non prima dell'ultimo trimestre di quest'anno o addirittura direttamente sull'anno prossimo. Avrete notato che c'è stato poi uno scambio abbastanza spiccante di battute, puntuto di battute tra il Fondo Monetario Internazionale, che ha iniziato a proporre comunque per il futuro un inflation target a livelli del 4% e non del 2%, con la BCE che ha risposto con una certa veemenza che no, che il target sarà sempre il 2%, perché comunque si è molto preoccupati dal fatto che possa... Ecco, questo è un punto delicatissimo. Allora, il Fondo Monetario Internazionale ha detto in sostanza: attenzione, a noi può andare bene anche una ripresa, adesso anche qui traduco, che porti un po' di inflazione, come spesso viene in alcune fasi della ripresa. Cioè, finché l'inflazione restasse sotto il 4% o intorno al 4%, non avremmo grossi problemi. La Banca Centrale Europea, che dell'inflazione ha fatto veramente il mantra, ha detto: attenzione, a noi non va bene un'inflazione sotto il 4%, vogliamo che l'inflazione resti al 2% minimo. Questo che problemi potrebbe aprire, professoressa Brogi? Semplicemente, secondo me, la BCE intende rimanere a quelli che sono sempre stati i suoi storici target e, tra l'altro, rimanere con un'impostazione molto tedesca, ereditata dalla Bundesbank. Di fatto è chiaro che paesi come l'Inghilterra o gli Stati Uniti stanno dicendo che loro sono disponibili comunque a una progressiva svalutazione del valore interno della moneta per di fatto rendere meno pesanti i debiti. Questo è un po' il succo: i debiti pubblici, i debiti privati, un modo per eroderli almeno in parte con una progressiva inflazione. Certo. Credo che il dibattito sia ancora molto aperto, certamente si sta veramente incominciando a ragionare su quella che sarà l'exit strategy migliore, e secondo me in questo momento non è chiarissimo quale possa essere, e purtroppo temo che non sia ancora molto chiaro quando saremo sicuri di essere di poter utilizzare fuori. Allora, ci ha raggiunto in studio, ringrazio il vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Praterotti. Ciao Alessandro, grazie. Buonasera. Impegnato prima nella riunione chiaramente quotidiana del quotidiano, scusate il bisticcio di parole, riassumo brevemente. Rispetto a un anno fa, l'analisi adesso è tutta concentrata sulla qualità dei crediti bancari. Giustamente la professoressa Brogi faceva notare questo documento arrivato la settimana scorsa da Consob, Banca d'Italia e ISVAP, che diceva alle banche: attenzione, mettete in evidenza tutto quello che ancora avete come sofferenze o potreste avere, e svalutazioni, perché a questo punto non si può più continuare a procrastinare. Volevo capire intanto un tuo commento su questo. Anche secondo te il più 77% di Milano e il più 70% di Wall Street in questo anno sono stati trainati dal settore bancario, o c'era anche qualche altro settore industriale che soffriva ingiustificatamente? Beh, c'è intanto tutto il settore minerario, che non dimentichiamoci ha fatto da motore per la borsa, passa un po' in secondo piano molto spesso parlare di rame e altri metalli o materie prime, ma tutte le miniere che hanno beneficiato del boom della domanda dalla parte asiatica e soprattutto dell'indebolimento del dollaro, perché ricordiamo che adesso parliamo di dollaro più forte, ma nel 2009 abbiamo parlato di dollaro debole. Il dollaro debole costringeva a spingere verso l'alto le materie prime in modo da compensare, perché le materie prime si comprano in dollari ovviamente, e questo è stato un po' il motore della borsa. In secondo luogo le banche, sì è vero c'è stata anche una componente bancaria molto forte, ma a questo proposito io vorrei fare una parentesi: come giustamente tu rilevavi, cioè l'appello a fare bilanci più trasparenti delle banche riflette qualcos'altro, non è soltanto, diciamo così, la tendenza a mettere sotto il tappeto quello che non piace, è la sospensione che è ancora in atto di tutti i più importanti parametri della contabilità bancaria internazionale. Sia in Europa che negli Stati Uniti le banche, le assicurazioni, ma in generale tutte le società quotate stanno beneficiando, ma soprattutto le banche, di un regime di sospensiva su quella che è la valutazione degli asset o dei titoli che noi abbiamo chiamato per un certo periodo tossici, ma che in realtà si chiamano i liquidi. Ora sono rimasti poco liquidi, le banche in molti casi non hanno bisogno di contabilizzare la perdita potenziale che avrebbero fatto su quel titolo, i bilanci ancora non rispecchiano la vera salute delle banche. E allora torniamo all'esempio che facevo io prima di un cittadino che si recasse in banca avendo un immobile con un mercato del mattone che fosse crollato. Lui l'ha comprato a 100.000, ritiene di avere un investimento da 100.000, però il mercato ti dice che quell'immobile lì vale 40, 50.000, forse 30.000, e quello che, se ho ben capito il tuo ragionamento, è insomma, per la tenuta del sistema finanziario e anche politico a questo punto, nell'ultimo anno si è preferito dire alle banche: vabbè, non andate a contabilizzare tutte le perdite che avete. vi si dà anche la possibilità di non ragionare su quanto vale la carta che avete, carta tossica, perché non provate neanche a vendere, ce l'avete a libro, vabbè. A un certo momento però questo gioco del io so che tu non la puoi vendere a quella cifra, ma faccio finta che tu ce l'abbia quel valore, è un gioco che deve finire. E Alessandro Paterotti, quando secondo te si arriverà a chiedere alle banche di iniziare a scrivere nel dettaglio quanto vale quella roba lì? Come se dovessero venderla veramente sul mercato e non facendo finta che tanto prima o poi potranno venderla a quel valore. A livello di organismi internazionali, cioè negli Stati Uniti il Federal Accounting Standard Board e nell'Europa l'International Accounting Standard Board, sono i due organismi che fissano i parametri e le regole della contabilità internazionale, si sta già discutendo come operare una exit strategy, chiamiamola anche in questo senso exit strategy, perché le banche non possono nel lungo termine continuare a beneficiare di questo allentamento contabile. Sì. Certamente da quello che si dice si arriverà intorno all'estate con già delle prime modifiche sui fondi pensione. Vi faccio un esempio molto efficace in questo senso. I fondi pensione tuttora, per effetto delle sospensive delle regole IAS, cioè gli standard internazionali, hanno il diritto di ritenere sempre in guadagno il loro portafoglio titoli per le pensioni, cioè non hanno bisogno di contabilizzare un'eventuale perdita su dei titoli che hanno acquistato, perché vale la presunzione che il portafoglio sia in guadagno, e questo permette di fare dei quadri pensionistici che sono del tutto irrealistici. Si sta cercando di rientrare da questi sì, eccessi. Piacerebbe anche noi come privati risparmiatori poter andare in banca e dire la nostra attività è comunque in guadagno al di là di quello che sta capitando sul mercato, insomma, però è fatto per la tenuta del sistema per ora. Professoressa Brogi, la domanda più difficile per lei e poi per Alessandro Paterotti, che mercato ci attende? Ora, nessuno dei due fa l'operatore di borsa e volutamente non abbiamo invitato, c'è Deborah Rosciani che lo fa ciclicamente la mattina con Savadanaio, nessun operatore di borsa, anche perché poi, però insomma, come analisi macroeconomica lì sì la chiamo ad intervenire. Secondo lei questo mercato resterà orizzontale finché non si sarà svuotato, spurgato, se mi passa del termine, tutto quello che c'è da spurgare nei bilanci, soprattutto dei grandi colossi finanziari? Ma secondo me quello che serve è capire meglio cosa succederà per l'economia anche in Europa. Secondo me non è ancora del tutto chiaro e forse qualche indicazione verrà nelle prossime settimane, mano a mano che le società continuano a presentare i loro risultati annuali, che includono anche il quarto trimestre, però secondo me la situazione congiunturale è ancora molto molto incerta. Finché non si aprirà con chiarezza una maggiore ripresa, secondo me il mercato, io dubito, possa salire. Su questo anche Alessandro Paterotti. Ale? Sì, io condivido pienamente l'opinione sulla questione dell'economia, ovvero certamente anche per Wall Street oggi le economie europee hanno una rilevanza diversa da quella che potevano avere alcuni anni fa, e lo vediamo adesso come reagisce l'indice ad esempio all'IFO tedesco e così via. Ma c'è un altro elemento da tenere presente per i prossimi mesi: quale sarà l'andamento del dollaro. Il dollaro, è bene ricordarlo, ha subito una svalutazione competitiva che ha penalizzato anche i titoli in borsa, perché l'investimento estero quando rientrava in casa veniva penalizzato proprio dalla debolezza del dollaro. Il rafforzamento del dollaro in questi giorni sta aumentando l'attrattività di tutte le classi di attività denominate in dollari, dalle azioni ai titoli di Stato. Questo sicuramente potrebbe essere un cuscino sotto il mercato finanziario che l'anno scorso non c'è stato. Allora, hanno ragione gli ascoltatori, lo dicevamo anche prima, che fanno notare, è un elemento matematico, che se tu perdi il 50% e poi guadagni il 50% sei ancora sotto di un 25%, questo lo capiamo tutti. Se da 100 vai a 50 e poi fai più 50 vai a 75, non torni a 100, ed ecco perché, come ricordavamo prima, dall'inizio 2009 ad adesso la borsa italiana è ancora sotto di quasi un 30%, un 28%, così come il Dow Jones è ancora sotto di un 25%. È dal marzo del 2009 rispetto adesso, cioè un anno esatto, che si è recuperato un 77%. Io ringrazio la professoressa Marina Brogi, appunto, che insegna economia e tecnica dei mercati finanziari alla Sapienza di Roma. Grazie professoressa. Grazie a voi. Chiedo invece a Alessandro Paterotti ancora un minuto, perché abbiamo le informazioni sul traffico, e poi vorrei, prima di introdurre la borsa, un tuo commento su quello che sarà il prossimo tema dopo le 18, queste polemiche che si stanno aprendo sulla banca, sul Fondo Monetario Europeo, insomma molte perplessità della Banca Centrale Europea e anche dei commissario europeo. 349-238-6666 per i vostri sms. 17:49 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, e adesso arriviamo subito alla borsa, lo dico anche a chi scrive al 349-238-6666. Una battuta però la vorrei da Alessandro Platerotti su quello che sarà poi il grosso prossimo tema della puntata, e temo, o immagino, anche dei prossimi giorni. Fondo Monetario Europeo. Oggi abbiamo visto una Banca Centrale Europea un po' preoccupata, e anche Juncker, il presidente dell'Eurogruppo. Insomma, il ritornello è un po' questo, dice: attenzione, non vorremmo con questa idea di un fondo monetario che fa da pronto soccorso ai paesi in difficoltà, i paesi stessi dell'area euro mollassero il cordone, mollassero la tensione, imbarcassero più deficit, poi tanto arriva il fondo, l'ambulanza, il dottore della mutua che ti mette i cerotti, e la Banca Centrale dice in questo modo salterebbe il cosiddetto patto di stabilità, cioè l'obbligo per i paesi dell'euro di andare sotto il 3% del deficit e via dicendo. Alessandro, ma io credo si stia facendo tanta confusione, si stia innestando anche un po' di polemica politica all'interno dell'Unione fra Francia, Germania e la BCE, quale deve essere il ruolo. Lo dico per due ragioni. Primo, perché qui non si tratta di costruire un nuovo fondo monetario internazionale, anzi si tratta di creare un nuovo strumento di intervento che è del tutto diverso dal fondo monetario, perché mentre il fondo agisce su chiamata, come giustamente dicevi te, arriva in soccorso, rifà i conti e ti dice come curarti, in questo caso si parla di prevenzione delle crisi, il che vuol dire che il nuovo organismo europeo dovrebbe intervenire su un singolo paese prima ancora che esploda una crisi. Questa è una filosofia completamente diversa. Quindi che cosa significa? Una maggiore sovranità limitata degli stati. Questo urta delle suscettibilità. E poi chi deve guidarlo? Come deve finanziarsi? E già oggi i paesi europei sono chiamati a finanziare il Fondo Monetario Internazionale con grande difficoltà, per cui creare un nuovo organismo sicuramente crea delle perplessità all'interno dei, soprattutto dei paesi più deboli. Quali meccanismi di vigilanza? Ultimo, quale capacità sanzionatoria? Attualmente tutti questi punti sono un po' in alto mare, e la fumosità un po' che vediamo nel dibattito e il prendere posizioni ogni giorno diverse, perché la Germania era molto positiva con la Merkel, poi è stata la Banca Centrale Tedesca a gettare con Weber, poi a dire di no. Ma tutto questo riflette che cosa? Riflette un sistema in questo momento che non è né in grado di prevenire le crisi all'interno dell'Unione, né di avere strumenti di intervento concepiti per uscire rapidamente da una crisi. Beh, il famoso ragionamento su un'Europa solo monetaria e non politica, perché poi questi servono strumenti di politica economica molto forte. Fai bene a ricordare che la stessa Angela Merkel oggi ha corretto il tiro, dopo appunto il richiamo della Bundesbank, e ha detto: ma insomma, le sanzioni potrebbero essere così dure addirittura ad arrivare al divieto, alla sospensione del diritto di voto di un paese, sì, in Commissione Europea. Guarda, io dico una cosa: se andiamo a guardare poi veramente i trattati, l'articolo 136 del trattato di Lisbona permette a un singolo Stato di dotarsi degli strumenti atti a consentire agli altri Stati una maggiore vigilanza sui propri conti, quindi il background, il retroterra giuridico già ci sarebbe per poter fare un fondo monetario europeo. In realtà il problema è politico: chi lo deve comandare, la Francia, la Germania o i paesi più deboli? E che Europa esce, un'Europa diciamo renana o franco-tedesca. Grazie anche a Alessandro Patriotti, vice direttore del Sole 24 Ore. La borsa. Paolo Paronetto, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, intanto ringrazio perché ci ha raggiunto anche il senatore Giuliano Cazzola, che stavamo cercando da un po' per quel decreto che ricordavo sulla cassa integrazione. Senatore, buonasera, mi sente? Sì, la sento. Un attimo di pazienza, le facciamo sentire la borsa in diretta e poi veniamo all'emendamento sulla cassa integrazione da 12 mesi, se ho ben capito 18 mesi. Paolo Paronetto, giornata piatta di borsa, abbiamo parlato fino adesso, meno 0,2% il Mibtel, più 0,1% Parigi, più 0,1% Francoforte. I titoli, abbiamo visto Unicredit perdere l'1,3%, Atlantia meno 1%, Intesa meno 1%. E meno 0,90 UbiBanca. Bene, Mondadori più 2,2, Unipol più 1,5, Campari più 1,1, Eni più 0,80 come Geox. Allora, Mondadori. Sì, Mondadori è stata tra le migliori del listino fin dall'avvio. La seduta generale, come ricordavi tu, è stata piuttosto incerta, a un anno esatto dai minimi che ricordavi proprio prima anche tu, del 9 marzo 2009. Da allora il listino milanese ha guadagnato circa il 72%, ma oggi la seduta è stata tranquilla dopo 7 giornate consecutive di rialzo. Ha fatto eccezione Mondadori, appunto, che ha guadagnato il 2,22%. Il titolo è stato premiato dalla promozione degli analisti analisti di UBS e la Banca d'Affari ha alzato il giudizio e oggi consiglia di comprare il titolo Mondadori sulla scorta delle previsioni per il business del gruppo nel corso del 2010. In particolare, secondo UBS, nel secondo semestre Mondadori beneficerà del taglio dei costi, cosa che permetterà alla società di avere spazio di manovra soprattutto sul fronte della politica dei dividendi. Si potrebbe tornare a un rendimento da dividendi di circa il 5% nel 2010, ovviamente prospettiva apprezzata dagli investitori. Oggi, visto che parlavamo di settore bancario, in calo tutte le banche invece. Qui c'è un... noi target price non li vogliamo dare, ma insomma... c'è chi dice, come UBS, che tanto danno si è fatta da solo nel 2009, che il settore bancario avrà comunque un calo del 9% negli utili? Sì, esattamente. C'è uno studio di UBS che stima gli utili per le banche italiane in media del 2010 in calo di circa il 9% rispetto al 2009, e gli analisti in particolare puntano il dito sulla bassa redditività e su un deterioramento della qualità degli asset, e quindi secondo loro anche il 2010 vedrà un calo dei profitti da parte delle banche. In particolare la flessione sarebbe del 9% proprio per Intesa San Paolo e dell'8% per Unicredit, addirittura per il 21% del 21% per il Banco Popolare. E ovviamente queste stime in una seduta tranquilla e priva di altri riferimenti, ad esempio sul fronte macroeconomico, queste indicazioni hanno pesato sui titoli. Come ricordavi tu, Unicredit è stata la peggiore del FTSE MIB, ha chiuso sotto quota 2 euro in calo dell'1,31%, anche Intesa San Paolo ha perso lo 0,97% e tutti gli altri titoli hanno chiuso comunque in rosso. E poi in calo Autogrill, nonostante l'accordo firmato oggi per cui Autogrill fornirà 80 stazioni di servizio Esso Italia, Autogrill perde lo 0,50%, dicevamo Mediobanca l'abbiamo già detta, meno 0,6%, mezzo punto di calo anche per Parmalat, Ansaldo, STS, Finmeccanica e Mediaset, tra chi ha guadagnato oltre che Unipol anche Campari più 1%, Eni più 0,80%, Geox più 0,80%, A2A più 0,70%, come Saipem mezzo punto in pregiro. Tra i titoli minori, bene Pirelli Real Estate più 5,3%, stime migliori delle attese, e bene anche Gabetti più 8,5%, Arena è migliore più 14%, Ratti peggiore meno 5,3%. Paolo Pronetto, grazie. Adesso c'è il GR, poi appunto col senatore Cazzola l'emendamento passato oggi che allunga, se abbiamo ben capito, la cassa integrazione ordinaria. 349-238-6666 per i vostri sms. Diciotto e dieci minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia. E allora, poi ricorderemo anche alcune cose sulla borsa, però in collegamento, lo ricordo, l'onorevole Cazzola. Perché ne parliamo? Perché parliamo con lui? Perché oggi è passato con un voto bipartisan, lo ricordavamo, cioè maggioranza e opposizione, un emendamento che allunga di fatto, ma vorrei maggiori dettagli appunto dell'onorevole Cazzola, allunga di fatto la cassa integrazione ordinaria. La cassa integrazione ordinaria vale per un anno, per cui da sempre quello è il periodo, un anno effettivo, non un anno lordo, un anno netto. Onorevole Cazzola, che cosa è passato oggi, ripeto, con voto sia di maggioranza che opposizione? No, innanzitutto va detto che si tratta di un primo passo, esatto, perché il voto riguarda la Commissione Lavoro. Commissione Lavoro, certo, della Camera. Della Camera, quindi c'è tutto un iter, bisogna sentire il parere delle altre commissioni, poi bisogna andare in aula, quindi siamo appena agli inizi di un cammino che è comunque un cammino interessante. È un provvedimento di 5 articoli che contiene alcune misure di emergenza assoluta. Quello sulla cassa integrazione sostanzialmente propone di allungare di 26 settimane la cassa integrazione ordinaria, portandola da 52 a 78. E quindi vedremo cosa dice innanzitutto la Commissione Bilancio. Noi pensiamo di aver individuato anche una copertura. Ecco, perché ho visto le reazioni dei sindacati. Allora, tutti plaudono all'iniziativa. Dice la CISL, è un emendamento utile, speriamo che ci sia la necessaria copertura finanziaria. La CGL dice è un primo passo, ma va portata da 52 settimane, cioè da un anno effettivo, a 104 settimane, quindi a due anni effettivi, anche qui le richieste sulla copertura. Poi vedo che invece il ministro Sacconi ha detto poco fa, non introduce l'emendamento approvato oggi in Commissione Lavoro alla Camera, non introduce una protezione maggiore del lavoro. Già oggi la cassa integrazione viene contestata per giorni, non per settimane, con un allungamento di fatto della sua durata, che era il principio che spiegavo prima, cioè sono 52 settimane nette, non lorde. Non, se tu torni al lavoro nel frattempo, fai blocchi di 3-4 settimane, 3-4 mesi di cassa integrazione, ti vengono conteggiati solo quelli. La copertura? Ma la copertura noi l'abbiamo messa sugli 8 miliardi del decreto legge 119, sono stati spesi solo 2, quindi crediamo che la copertura ci possa essere. Il ministro Sacconi ha ragione, nel senso che c'è un'interpretazione che viene data molto pro labor, diciamo, no? Che noi non l'abbiamo toccato minimamente. Poi va detto anche che esiste l'intervento della cassa integrazione in deroga, quindi certo. Non è che abbiamo dato l'assalto al palazzo d'inverno, abbiamo scalato il cielo, abbiamo fatto una misura che comunque aiuta, e la reazione, mi pare, del mondo delle aziende, del mondo dei sindacati, mi pare che sia una reazione positiva. Poi il governo dopo le elezioni presenterà la sua riforma sugli ammortizzatori sociali. Noi questa norma l'abbiamo messa in attesa della riforma sugli ammortizzatori sociali, quindi siamo stati, credo, molto cauti, anche molto collaborativi con la posizione del governo. Allora, un'ultima domanda, perché poi so che devo tornare in aula per votare, ma ci chiedono molti ascoltatori, il tema è molto delicato, in questo modo si rafforzano, io dico comunque ben venga, le tutele, dovesse passare poi anche far tutto l'iter e quindi diventare legge. Si rafforzerebbero le tutele per i lavoratori che possono godere di cassa integrazione ordinaria, quindi lavoratori dipendenti in primo luogo, però scrivono alcuni ascoltatori partite IVA vere o forzate, quindi non so se siano solo partite IVA oppure obbligati a essere partite IVA, e vale anche per i pro, come si chiamano adesso, i coco pro, insomma per tutte le figure che non hanno la tutela della cassa integrazione, dicono ma in questo modo aumenta il divario tra i tutelati e i non tutelati. Cioè, noi non avevamo la forza di fare una riforma degli ammortizzatori sociali che giustamente vuole fare il governo. Posso dire però che abbiamo inserito anche alcune norme, molto modeste se vuole, a favore dei coco pro. Due cose: una, abbiamo inserito una norma che estende anche ai coco pro la tutela di cui al 2116 del Codice Civile, cioè il principio di automaticità delle prestazioni. Oggi se il committente non paga i contributi, il coco pro non riceve le prestazioni, diversamente dai lavoratori dipendenti. Noi abbiamo invece previsto che se il committente riscuote i contributi e non li paga, comunque la prestazione è dovuta al coco pro. L'altra norma che abbiamo messo è che se dovessero rimanere delle risorse per quell'indennità una tantum che il governo ha previsto già il secondo anno che l'ha prevista, noi abbiamo messo una norma per cui queste risorse devono essere reimpiegate nel settore e non possono più andare in economia. Quindi quel poco che potevamo fare per il Coco abbiamo cercato di farlo. In una battuta ci chiedono altri ascoltatori, sempre a 349-238-6666, ma se come è previsto dopo le elezioni regionali il governo metterà mano a tutta la riforma degli ammortizzatori sociali, che senso aveva fare questa approvazione? Cerco di tradurre la domanda. Lo so, questo è vero, diciamo che c'è stata un'esigenza anche di convergenza, nel senso che l'opposizione aveva chiesto di mettere all'ordine del giorno, valendosi del regolamento, 6 progetti che facevano la riforma degli ammortizzatori sociali, e noi abbiamo ritenuto che alcune cose, alcune prime misure potessero essere terreno di convergenza bipartisan. Tutto qui, insomma. Quindi è un'iniziativa anche con un valore, una cifra politica, cioè è la dimostrazione che su questo fronte c'è una convergenza amplissima in Parlamento, perché insomma ha avuto il consenso del PDL, della Lega, del PD, e Italia dei Valori, UDC erano assenti, ma insomma. Sì, ma non penso che fosse. Non penso nemmeno io, insomma, che sarebbe stato. È un segnale politico piccolo, è la prima volta che su temi del lavoro si realizza un minimo di convergenza, su altri terreni come l'impresa, oggi per esempio le cure palliative si vota all'unanimità, io non vedo nulla di disdicevole se anche sul terreno del lavoro qualche volta si va d'accordo invece che litigare. Vabbè, si figuri per noi. Grazie all'onorevole Giuliano Cazzola, e adesso le informazioni sul traffico, poi ultimo tema di questa puntata, di nuovo polemiche, ne accennavamo già prima, cambi di posizione, correzione di rotta sul tema del Fondo Monetario Europeo, il timore dei tedeschi fa frenare anche le iniziali dichiarazioni di Angela Merkel. 349-238-6666 per i vostri sms. Ultima parte di Focus Economia, e allora il tema è quello del Fondo Monetario Europeo. Due risposte le devo però dei gruppi di messaggi che sono arrivati nel frattempo, e soprattutto sul primo tema di apertura. Quindi un anno fa la borsa toccava i minimi da 12 anni a questa parte, le borse. Allora, per chiarire, perché poi con le cifre in radio è sempre difficile, ma insomma, guardiamo i punti dell'indice MIBTEL. Non c'è dubbio che rispetto ai minimi il MIBTEL abbia fatto un più 77%, quindi Piazza Affari Milano, rispetto a un anno fa. Non è altresì indubbio che rispetto al settembre-ottobre si sia ancora molto sotto. In questo momento il MIBTEL viaggia, o il FTSE MIB come si chiama adesso, viaggia intorno ai 22.000 punti, a quel tempo a settembre si era a 28.000 punti, quindi la dice lunga la differenza. Da 28.000 è sceso fino a 14.000 punti al 9 marzo del 2009, per poi risalire agli attuali 22.000. Ecco perché si diceva: attenzione, nonostante un recupero del 77%, si è ancora sotto, perché se sei a 100 e perdi il 50% vai a 50, se fai più 50% di 50 vai a 75. Quindi non basta fare la stessa cosa che si è perso, questa insomma è matematica semplice, e spero che il professor Mario De Aglio, che è in collegamento con noi, non mi boccerà questa spiegazione. Professore, buonasera. Grazie, già è qualcosa, perché andiamo verso il finale del programma. Dunque, tema, ultimo tema, la polemica che prima ancora di nascere questo Fondo Monetario Europeo già divide l'Europa con numerosi distinguo e dietro front. È bastato infatti che venisse proposta un'idea di un fondo monetario però di carattere europeo a cui partecipano i vari stati, che dovrebbe intervenire come ambulanza, come pronto soccorso, proposto dalla Francia e dalla Germania. Angela Merkel, cancelliere tedesco, entusiasta ieri, oggi appunto già corregge il tiro. Ha detto sì, occorrono sanzioni durissime per gli stati, la possibilità che addirittura uno perde il diritto di voto temporaneamente in Europa, e poi comunque ancora adesso stiamo ragionando sulle caratteristiche che dovrebbe avere questo Fondo Monetario Europeo. Perché? Perché nel frattempo è arrivato il richiamo dalla Banca Centrale Europea, e la Banca Centrale Europea ha detto: attenzione, così com'è questa proposta può portare a un allentamento dei cordoni della borsa, un allentamento del rigore nei conti pubblici europei. Tant'è che oggi la Commissione Europea si è affrettata a ricordare: attenzione, non c'è ancora nessuna proposta, stiamo ragionando di accademia. E il presidente dell'Eurogruppo, José Manuel Barroso, ha detto: è una proposta a lungo termine, adesso serve un coordinamento molto più piccolo, molto più concreto tra i paesi dell'area euro. That idea was put forward by the Minister of Finance of Germany. La proposta è stata avanzata dal Ministro delle Finanze tedesco, senza fornire dettagli su come potrebbe essere costituita. Sembra essere un contributo dato distinto al dibattito su cosa sta succedendo ora nell'area euro. La proposta di un Fondo Monetario Europeo è una proposta a lungo termine. Ciò su cui ora la Commissione sta lavorando è un'iniziativa per rinforzare il coordinamento della politica economica e la sorveglianza nella zona euro. Non sono in grado in questo momento di dire quali saranno le linee guida della nuova proposta. In generale, noi sosteniamo qualsiasi strumento e misura che accresca la governance economica. Dobbiamo però analizzare i dettagli operativi e avanzare le proposte al momento opportuno. Detto questo, il Fondo Monetario Europeo non può risolvere la questione urgente della Grecia. È una questione separata che richiede un'analisi più prolungata ed è a lungo termine. It's a separate issue that requires more analysis and that is for a longer term. Allora, così il Presidente della Commissione Europea, Barroso. Professor De Aglio, per capirci e per dirla tutta, insomma, hanno ragione i custodi dell'euro che risiedono a Francoforte e poi a Berlino, nel dire ma se iniziamo a immaginare un fondo monetario europeo che va in aiuto preventivo o successivo ai paesi in difficoltà, qua tutti sbraccano, per usare un termine poco economico, o ha ragione chi dice ma insomma con questa Europa fatta solo sull'euro, ma in cui ogni Stato va per sé, non c'è una politica economica unica, per aiutare la Grecia che è l'equivalente della Lombardia, del Baden-Württemberg, cioè, non siamo riusciti a trovare un accordo, qua bisogna andare oltre, perché sennò ci massacreranno sull'euro, ci massacreranno nel futuro, perché l'Europa, oltre che un'unione monetaria, non è. Ma io sono di quelli che hanno la seconda posizione, quindi che qualcosa bisogna fare. Naturalmente bisogna anche dire l'altra parte della medaglia, cioè che per essere aiutati dal Fondo Monetario Europeo i greci o chi per loro dovranno di fatto rinunciare a una parte della loro sovranità economica. Questa è la cosa che brucia, che non si dice mai. Cioè il paese che viene messo sotto tutela certe cose non le può più fare. Avrà un Parlamento, farà delle leggi, ma in campo monetario è diciamo così, secondario, sottoposto, non diciamo una colonia perché sarebbe comunismo antidiplomatico dell'Europa che si prende cura di lui. Ma mi scusi, ma lei ce la vede uno Stato non come la Grecia che già comunque ha mostrato più di una resistenza a avere qualunque interferenza, ma non so, una Spagna, non dico l'Italia, insomma, pensiamo anche eventualmente dovesse mai servire la Germania, ma insomma uno Stato come la Spagna a venire commissariato nei diritti di voto in Europa, nelle politiche economiche interne, per avere gli aiuti? Guardi, fino a un certo punto di dimensioni la vedo, lasciamo perdere la possibilità politica, ma diciamo tutti i nuovi entrati, i 10 nuovi entrati famosi, tranne la Polonia e poi Grecia e Portogallo e Irlanda li vedo tranquillamente. Sicuramente se facciamo un salto di dimensione andiamo a toccare i 5 grandi, cioè Italia, Francia, Germania, Spagna ed eventualmente per le cose che possono interessare a Gran Bretagna, allora una cosa del genere non funziona più, cioè allora salta l'Europa. Quindi è un fondo monetario europeo che deve servire ai minori, ai piccoli. Deve servire ai minori. Sui grandi o i grandi riescono ad andare d'accordo perché sono grandi, maggiorenni, consapevoli, eccetera. Oppure non c'è niente da fare, allora l'Europa, comunque questa Europa qui è finita, bisogna farne un'altra, probabilmente molto più ristretta, molto più franco-tedesca, e allora staremo a vedere. Questo diciamo è secondo lei il portato di questa crisi per quello che riguarda la variabile europea e i paesi che possono definirsi diciamo, europei a pieno titolo quanto a parametri economici? Direi che guardi, questa crisi ha rivelato che il re è nudo. E abbiamo cercato per tanto tempo di dire che non era vero, di fare finta di avere una politica economica comune che non avevamo, di essere tutti d'accordo e viva l'Europa più grande, però di fatto questa Europa manca di alcuni ingranaggi senza i quali non è possibile funzionare se appena c'è un po' di mare grosso. O ce li diamo oppure andiamo tutti a casa. E quindi o restringiamo anche il nucleo del nocciolo duro oppure è meglio istituire un fondo monetario europeo che salvi però i piccoli, perché come dimensioni i grandi non possono essere salvati dall'esterno. Grazie Mario De Aglio, docente di economia internazionale e editorialista della Stampa. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, vi lascio alla nostra programmazione, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Per ora buona serata. Radio 24, la passione si sente.